E allora buon pomeriggio a tutte e a tutti. La vostra radiolina è sempre sintonizzata sugli 87.9, questa è Radio Onda Rossa. E come ogni giovedì pomeriggio, questa è Attica Blues. Quest'oggi vi delizieremo con la sesta e ultima monografia sulla Verve in occasione dei suoi 60 anni di attività. Dopo aver fatto i musicisti, le grandi voci, le voci femminili. Eh sì, quest'oggi parleremo, diciamo, degli ultimi 25 anni della Verve. Degli ultimi anni, vai, i tempi recenti. Sì, sì, chiuderemo in bellezza. E intanto apriamo pure in bellezza, perché apriamo con una delle colonne di questi anni della Verve. Lui è Wayne Shorter, colonna negli anni 60 addirittura della Blue Note. Poi ha passato un periodo alla Columbia, poi in realtà poi lui sparì dalle scene per circa 10 anni negli anni 90 e poi è ripartito appunto con la Verve in una sua seconda rinascita e in un quartetto, qui ce l'ascoltiamo in dei concerti presi live in Europa e in cui lui alterna pezzi scritti appunto recentemente in quegli anni e pezzi più vecchi come questa Footprints che era del quintetto suo storico con Miles Davis. Qui è in quartetto con Danilo Perez al piano, John Patitucci a contrabbasso e Brian Blade alla batteria. Finale in piano è un grandissimo Way Shorter, qui ritira fuori ancora il soprano. Questi sono gli anni proprio che lui diventerà veramente una leggenda del soprano, e ci ha preso gusto e ritornerà in studio ancora l'anno dopo, nel 2003, e in un quartetto acustico, era dal 1967 che lui non incideva acustico con il suo quartetto, e questo disco Allegria, in cui però vede poi anche la presenza per esempio di Brad Mehldau, Alex Acuna, insomma una marea di ospiti. Qui ce lo sentiamo in questo quartetto che era di nuovo quello là, e quindi Danilo Perez, John Patitucci, Brian Blade, questo è Capricorn Tour. anche qua ha finito in piano, Sì, fantastico, fantastico. Veramente. E un'altra colonna della Blue Note degli anni 60 diventerà poi invece un pezzo importante della Verve. Parliamo di Herbie Hancock, tra l'altro compagno di mille dischi con Wayne Shorter, e dal metà anni 90 appunto realizzerà diversi dischi per la Verve, alcuni buoni, altri meno. Beh, questo tra l'altro è un disco particolare, è un omaggio a Joni Mitchell. Esatto, è un omaggio a tutti i brani scritti da Joni Mitchell, qualcuno invece scritto magari da Duke Ellington o dallo stesso Wayne Shorter, e molti ospiti come Norah Jones, Tina Turner, Leonard Cohen e la stessa Joni Mitchell, e completato poi in un quartetto completato da Wayne Shorter di nuovo al soprano e al tenore, Vinicolo aiuta alla batteria e Dave Holland al contrabbasso. Qui il disco si chiama River dei Johnny Letters, ci ascoltiamo il pezzo che apre proprio questo disco, Carton Spark, con la voce di Norah Jones. Guilty people, they said, they've all seen the stain on the daily bread on the Christian name. Oh, I cleared myself, I sacrificed my blues. You could complete me, I completed you. Bellissima, inconfondibile voce di Nora Jones. Ci andiamo ad ascoltare un altro brano da questo CD, omaggio a Joni Mitchell, proprio il pezzo di Joni Mitchell. Esattamente, Joni Mitchell, che poi è una cantante più legata forse al mondo del jazz che a quello folk. Ricordiamo pure quel bellissimo album dedicato a Charles Mingus e comunque tutte le sue varie collaborazioni. Mi ricordo anche quella con Jaco Pastorius, sì, al basso. E adesso appunto ce l'ascoltiamo con la sua voce. Questa si chiama Tea Leaf Prophecy, è appunto un brano scritto da Joni Mitchell, sempre un disco di Herbie Hancock per la Verve. Have shipped away. Burl McKee gets her tea leaves red. You'll be married in a month, they say. These leaves are crazy. Just look at this town, there's no men left. just frail old boys and babies talking to teacher in the treble clef. She plants her garden in the spring. She drives the winter shovel. On the radio, she says I'm leaving here, but she don't go. Out of the blue, just passing through, a young flight sergeant on 2 weeks leave says, Merle McKee, no one else will do. And he seals the tea leaf prophecy. Oh, those nights were strong and soft. Private passions and secret stories. Nothing about him ticked around. And he looked so cute in his uniform. She plants her garden in the spring. He does the winter shoveling. But summer's just a sneeze in a long, long bad winter cold. Soon she says I'm leaving here, but she don't go. Continuiamo con Herbie Hancock, sempre alla Verve naturalmente. Sì, torniamo 10 anni indietro perché appunto il suo debutto alla Verve con un progetto assolutamente strano ma diciamo anche vincente. Io ebbi modo pure di vederli dal vivo, proprio questo progetto, e il concerto funzionava. In realtà poi il disco si chiama The New Standard e appunto si tratta di rifacimenti, però in questo caso proprio jazz non cantati, di pezzi diciamo di musica pop, di musica black e diciamo dal... i pezzi che hanno caratterizzato gli anni 60, Prince, 70. Prince, Stevie Wonder, Prince, Peter Gabriel, i Beatles, insomma c'è Donald Fagen, insomma c'è un po' di tutto. Noi adesso ci ascoltiamo un rifacimento di Simon & Garfunkel, si chiama Scarborough Fair, è una formazione che è completata dalla batteria di Jack DeJohnette, Dave Holland al contrabbasso, Joe McLaughlin alla chitarra e il sax di Michael Brecker. Thank you. pure di quest'altro disco di Herbie Hancock, ce ne andiamo a ascoltare un'altra. Sì, diciamo intanto che questo della Verve è un periodo un po' così e così per Herbie Hancock, infatti confina spesso nel mondo del pop e alcuni pezzi sono pregevoli, altri un po' meno, però per esempio questo disco ha avuto il merito di poi riaggiornare il vocabolario degli standard e quindi da qui in poi anche lo stesso per esempio Brad Mehldau ha ripreso i Beatles, i Radiohead, insomma tutta la musica poi con cui loro sono cresciuti e quindi la musica dagli anni 70 in poi. L'andremo a fare una puntata su nuovi standard, eh? Secondo me sì. E infatti come in questo caso adesso Herbie Hancock riprende proprio un brano scritto da Kurt Cobain dei Nirvana e questo è All Apologize. E dunque la Verve, la casa dei grandi incontri, nel 1994 mise assieme il contrabbasso di Charlie Haden e il piano di Hank Jones per un disco che riprende poi i vari spirituals, inni e folk songs, come loro dicono appunto nel sottotitolo. Qui ce l'ascoltiamo in un brano scritto proprio da Charlie Haden, Spiritual. Siamo tornati al jazz duro e puro, eh? Sì, ci piano voleva, piano. Ci voleva. Tra l'altro inciso benissimo, come si sente questo contrabbasso è veramente incredibile. Charlie Haden che ci ha lasciato l'estate scorsa, quindi veramente una perdita importante per il mondo del jazz, e anche Hank Jones scomparso da poco. Loro poi hanno riuscito un altro disco che appunto raccoglieva il loro incontro, un altro disco veramente sublime, un po' come questo. Veramente bellissimo questo brano, veramente spiritual. Tanto cuore, sì. Charlie Haden e Hank Jones. Adesso ancora Charlie Haden, qui siamo nel 1996, qui un altro incontro con la chitarra di Pat Metheny. E loro sono entrambi del Missouri e si conoscono dagli anni 70, ma poi non ebbero mai modo di realizzare qualcosa. Ne venne fuori questo disco, veramente veramente bello, quella che ci sentiamo, The Precious Jewel.

Beh, anche per questo giovedì Attica Blues volge al termine, ci andiamo a sentire un ultimo brano sempre tratto da questo CD. Esattamente, chiudiamo in bellezza sempre da Distraction, ci ascoltiamo Bullshit, che è una collaborazione appunto fra Roy Hargrove, che curerà l'arrangiamento dei fiati, e D'Angelo. E qui siamo nel 2006, era il periodo in cui D'Angelo era sparito per circa 15 anni, poi è tornato l'anno scorso. Sì, tutta la storia del suo coinquilino che si era suicidato. Esatto, insomma, lui è sparito dalle scene, ha vinto tutto, insomma, riascoltatevi pure il podcast che troverete. E insomma, qua era nel 2006, lui ricompare proprio come ospite, tra l'altro che firma il pezzo e produce anche. Il podcast lo ritrovate sulle nostre pagine, sul sito di Radio Ondarossa, www.ondarossa.info, nella pagina di Attica Blues, ci arrivate da palinsesto giovedì, e se no anche dai nostri richiami che poi ci sono nelle varie nostre pagine social, Facebook, Twitter e Instagram. Il prossimo invece è una puntata sul reggae, una puntata in combo, e ci avremo ospiti Tracce di Cinema che ci parleranno appunto di due film che avranno il reggae come, diciamo, trama principale, e noi parleremo invece della colonna sonora. E insomma, ricambiamo anche l'invito che ci hanno fatto con quella puntata fra jazz e cinema. I film sono The Hard, The Cam e Rockers. Eh sì, quindi rimanete in ascolto perché ci sarà tanto tanto da ascoltare e da dire.